القلب اللي خرج عليا Tu va mai fatto nascere e morir Mi fai gamba senza sapere perché Mira tu viente per me fa volare E mano solo fredda per me fa scarfar Questa è la storia di un amor Donde il dinero gana il corazon Y era tan bonita y hermosa E l'artista tras el tenor Sotto una luna con diamante O fa soltanto per te fa spuglia Meglio c'è povera ma ricche cor Ca sotto la luna te fa sonna Con hasbe che ne mi sahab il khir Armiti habbi fi al bir Ho andu il melene adi kbir Ed il qalb li khrej alia Tu va mi fatto nascere e morir Mi fai gamba senza sapere perché Mira tu viente per me fa vola E mo non sono fredda per me fa scarfa come l'acqua, come un mare d'amore È la musica che batte nel mio cuore Un calore che si espande fino al limite del mio stupore Nel deserto dove nel silenzio nasce un fiore Il fiore rosso sangue della nostra vita insieme È la danza della terra, sole e pioggia come un seme Che lotta fino a diventare un grande albero Che darà il suo riparo al mondo libero Abbiamo gli strumenti, manca chi li suona Abbiamo la ricchezza, manca chi la rende buona Abbiamo terra e grano a sufficienza per sfamare il mondo intero Se solo ci volessimo dare da fare Vivere la vita come un viaggio Avanti, scugnizi con amore e coraggio Per vivere la vita come un viaggio Avanti, scugnizi, forza e coraggio Tu che mi hai fatto nascere e morire Mi fai gamba senza sapere perché Mira tu viente per me fa vola E mo non sono fredda per me fa scarfa Con hasbe che ne mi sahab il khir Il khir, il khir, il biti habbi fi qa'al bir Ho andu il melene andi kbir Ed il qalb li khrej alia Vivere la vita come un viaggio Vivere la vita come un viaggio Vivere la vita come un viaggio Avanti scugnizi Forza e coraggio Con hasbe che ne mi sahab il khir Armiti habbi fi qa'al bir Mira tu viente per me fa vola E mo non sono fredda per me fa scarfa